Ciao, io sono Boris, qua per voi, per accompagnarvi in un'avventura importante. Un'avventura che ti fa incontrare forze dimenticate dentro di te. Vi accompagno dentro una meditazione guidata. Una meditazione particolarmente importante per gli uomini in questo convegno. Le donne tra voi sono chiesto semplicemente di essere con noi uomini durante questo viaggio travolgente. Donne, abbiamo bisogno del vostro sostegno adesso, perché il tuo uomo in questa meditazione guidata va per incontrare e va per liberare il bisonte dentro di sé. Il bisonte dimenticato. Allora andiamo a ritrovarlo. Uomini, respirate, inspirate, espirate, inspirate, espirate. Bene, benissimo. Lasciate entrarvi nel profondo della vostra vitalità. Adesso, qui e ora, al nido delle aquile. Inspirate, espirate e così via. Lasciate che le sensazioni ti guidano dentro e dentro e ancora dentro, dove incontri te così come sei tu un uomo. E voi donne, respirate e state al fianco, per favore, che adesso l'uomo va per incontrare il suo destino. Uomo, senti il tuo cuore, il ritmo, come un tamburo antichissimo. E poi senti i tuoi piedi, come toccano la terra, che ti tiene, che ti porta. Ti senti pronto per andare con questi piedi a incontrare il bisonte dentro di te? Adesso non sei più a Padova, nella zona industriale, sei sul prato in Canada, un prato verde con l'odore della terra umida e fertile. Lasciati calare in questa sensazione. Senti i tuoi piedi e senti il tuo peso. Respira e lascia venire su quella sensazione antica dalle tue trippe. L'intelletto si arrende adesso alle trippe. Sì, bene, uomo, così, così, lo sai. E già senti come si trasformano i tuoi piedi in zoccole. Sì, ti trovi su quattro zoccole, sul grande prato in Canada. Sentiti, senti che sei enorme, un gigante che vibra di una forza incredibile. Però sei calmo, stai bene, essendo bisonte. Respira il bisonte dentro di te. Il peso, il suo calore, il suo soffio. Inspira l'odore dell'erba, dei fiori, degli alberi. Sei un tutt'uno con l'ambiente, stai bene, bisonte. Una giornata proprio al tuo gusto. Sei da solo sul prato enorme e verde. Stai bene così, essendo maschio. Senza farsi nessun problema di esserlo. Sei fatto così, maschio. E quel giorno, oggi, vibri in modo particolare nel tuo corpo di bisonte. Ti fai il tuo giro tranquillo, come di solito, però qualcosa fa girare i tuoi fluidi vitali dentro il tuo sangue un po' più forte del solito. Così bello e forte. Cosa sarà di particolare oggi, bisonte, che ti fa impazzire così? Caro bisonte, lo sai, è la stagione che ti fa impazzire, la stagione dell'incontro. E come per un miracolo, non sei più solo sul prato. Entra chi? Sì, lei, la femmina bisonte. La vedi, la senti e dentro di te avverti qualcosa come un terremoto di ormoni. Il tuo soffio si attiva. Fallo con me. E vai avvicinarti a lei. Vedila, come bella che è. Lei è la vita, la bellezza, il senso, la chiamata al tuo destino, bisonte. E tu, essendo il bisonte maschio, semplicemente segui il tuo istinto affidabilissimo. Niente dubbi, niente crisi, niente libri psicologici, niente timidezza, non ti fai problemi, solo eccitazione, chiamata, dignità. Con ogni passo si aumenta la tua estasi profonda. E lei ti avverte, lei ti ha sentito, la tua forza, il tuo odore, già da chilometri e chilometri. E adesso ci sei, caro mio, ci sei. Ti avvicini, scambiate dei sguardi che riflettono l'urlo della vita. Avete lo stesso urlo che urla per unirvi. Lei fa delle mosse che ti fanno capire, che ti fanno impazzire, che ti fanno capire che adesso è il momento. Bisonte, adesso tutto l'universo è con te. Vai, bisonte, vai. Ti prego adesso di fare il tuo urlo di seduzione 3 volte con me. Bravo, bisonte, bravo. E adesso ti lascio un attimo alla tua immaginazione libera. Fidati al tuo istinto e accetta il tuo destino. Bravo, bisonte, bravo. Sentiti vibrare. Senti il legame profondo con la donna bisonte. Quello che vi ha fatto incontrare. E inspirate l'erba insieme. L'odore della fertilità. Voi siete la vita. Ancora un attimo, uno a fianco dell'altro. E adesso, uomo bisonte, senti di nuovo le tue zoccole. Guarda la femmina bisonte, senti l'amore. E dila un bellissimo arrivederci. Al prossimo incontro sul prato, in Canada. Oh, una passeggiata in due durante un tramonto bellissimo. E le tue zoccole tornano i tuoi piedi, tu torni a te, torni quel uomo umano. Però dentro di te sai che è sempre pronto il bisonte e il suo istinto. Quando vai per incontrare lei, la donna, magari dopo, stasera, a casa, o alla stazione dell'autobus, domani mattina, magari al disco, al weekend. E allora, quando succede, non intimidirti, ricordati del tuo bisonte, che è sempre con te. Grazie e buona serata.